Vittime accertate nell'esplosione di una miniera in Turchia, tra loro anche un quindicenne, 3 giorni di lutto nazionale nel paese. Immigrazione, i dati di Frontex indicano un aumento degli arrivi di oltre l'800% nei primi 4 mesi dell'anno in Italia, arrestati 2 scafisti con l'accusa di omicidio volontario. Per Renzi, confronto in TV con Floris ieri sui 150 milioni di tagli alla RAI. Poi stamattina dice l'azienda non è né dei conduttori né del sindacato, ma di tutti i cittadini. Indagine su Expo, ci sono nuovi interrogatori in corso, Maroni intanto smentisce qualsiasi coinvolgimento e annuncia una querela a Repubblica. Le scelte di Prandelli alla prova dei consueti 60 milioni di commissari tecnici, dentro Pepito Rossi e Antonio Cassano, fuori Gilardino. Una buona giornata da Simone Spezia, benvenuti ad Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, la nostra email come sempre effettogiorno@radio24.it, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, oppure se volete scrivermi su Twitter mi trovate Simone Spezia. Iniziamo dunque da una nuova inchiesta che in questo caso riguarda il mondo bancario e riguarda in particolare il quinto gruppo bancario del paese, ossia UBI, un'inchiesta che coinvolge anche Bazzoli e Pesenti. Ci colleghiamo con il giornalista del Sole 24 Ore, Stefano Elli. Buongiorno Stefano. Buongiorno a voi. Allora, quali sono le notizie e che cosa sappiamo ad ora? Bene, le notizie sono che alle 8.30 di questa mattina centinaia di uomini del Nucleo Speciale di Polizia Valutaria di Roma, della Guardia di Finanza, hanno avuto accesso con un decreto di perquisizione della Procura di Bergamo negli uffici della UBI Banca, nella sede centrale di Bergamo, nella sede invece della UBI Leasing, che è invece a Brescia, e a Milano nella sede della Banca Intesa, dove ha l'ufficio Giovanni Bazzoli. E sono indagati Bazzoli e Pesenti. Bazzoli e Pesenti, esatto. Dunque le ipotesi di reato sono tre. Il primo è ostacolo alle funzioni di vigilanza, il 2638, e poi ci sono per questo reato sarebbero indagati appunto Emilio Zanetti, Giovanni Bazzoli e poi i membri del Consiglio di Sorveglianza e i presidenti del Consiglio di Sorveglianza e del Consiglio di Gestione della banca. Poi ci sono delle ipotesi di reato che riguardano invece operazioni condotte in conflitto di interessi e viceversa Giampiero Pesenti risulta indagato sotto la fattispecie di truffa aggravata per quello che riguarda operazioni gestite su beni concessi in leasing. Di che tipo di operazioni si parla, Stefano? Beh, probabilmente, adesso è ancora presto per dirlo, ma le cose che si dicono in buona sostanza parlano di cessione di beni ceduti in precedenza in leasing e non pagati e quindi ritirati dalla banca e subito riceduti ad amici, in buona sostanza. Allora, grazie intanto a Stefano Elli del Sole 24 Ore. Ospiteremo più avanti un'altra collega del Sole 24 Ore per parlare di un altro argomento. Non è entrato nei titoli perché le notizie sono di poco fa, perché è stata diffusa proprio pochi istanti fa la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul famoso bonus di 80 euro. La notizia principale al momento è che varrà anche per chi è in mobilità, cassa integrazione e indennità di disoccupazione, ma l'Agenzia delle Entrate chiarisce anche molti altri dubbi, ne parleremo più avanti. Veniamo all'altra inchiesta della quale si discute in queste ore ed è quella che riguarda Expo. Sono iniziati da circa un'ora gli interrogatori per l'imprenditore vicentino Enrico Maltauro, nell'ambito appunto dell'inchiesta. Gli inquirenti stanno cercando di far chiarezza sull'effettiva quantità di denaro pagata dall'imprenditore per avere gli appalti e se chi è coinvolto a vario titolo nella vicenda. Sentiamo. Sono in corso in procura a Milano gli interrogatori dell'imprenditore vicentino Enrico Maltauro e dell'ex segretario ligure dell'UDC Sergio Cattozzo, finiti in carcere giovedì scorso assieme all'ex parlamentare DC Gian Stefano Frigerio e all'ex funzionario del Partito Comunista Primo Greganti, all'ex senatore del PDL Luigi Grillo e all'ormai ex manager di Expo Angelo Paris. Maltauro, nel precedente interrogatorio, raccontò di aver versato soldi, mazzette, in relazione alle presunte gare pilotate a suo favore. Cattozzo invece ha spiegato che nei post-it che gli sono stati trovati durante l'arresto ha segnato la contabilità delle mazzette e ora però dovrà chiarire a quali nomi corrispondano le sigle segnate sui suoi pizzini. Da questi due interrogatori gli inquirenti si attendono conferme all'impianto accusatorio. Per ora si parla di 490.000 euro versati da Maltauro nel 2013 a Cattozzo e di altri 100.000 euro versati quest'anno, anche se in una intercettazione telefonica Cattozzo avrebbe parlato di 1.200.000 euro. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E il quotidiano La Repubblica sull'inchiesta Expo ha pubblicato oggi la notizia di contatti tra il faccendiere Gian Stefano Frigerio, più volte condannato, con Silvio Berlusconi e con Roberto Maroni. Contatti che secondo Repubblica sarebbero dimostrati dal fatto che i telefonini degli indagati si erano agganciati con la cella telefonica di Arcore col palazzo della Regione Lombardia in 6 date diverse. In tarda mattinata la replica di Maroni, che in un tweet ha annunciato querela al quotidiano, alla Repubblica appunto. Da segnalare un'altra notizia di pochi istanti fa. Il senatore del Movimento 5 Stelle Michele Giarrusso sostiene che dopo che un senatore aveva richiesto di conoscere gli accessi di Primo Greganti, tesserato PD arrestato per le tangenti dell'Expo, agli uffici del Senato, il sistema informatico si è improvvisamente bloccato ed è rimasto fuori servizio per mezza giornata, e quando ha ripreso a funzionare non risultavano tracce di ingressi in Senato proprio di Primo Greganti. Un'altra vicenda da approfondire. Giarrusso chiede un'inchiesta interna a Palazzo Madama. E l'altra inchiesta, quella che riguarda Claudio Scajola, la Corte d'Appello di Aix-en-Provence ha accolto la richiesta di estradizione di Chiara Rizzo, la moglie di Amedeo Mattacena, arrestata lunedì all'aeroporto di Nizza. La Rizzo potrebbe tornare in Italia venerdì prossimo. È nel frattempo in corso, nella sede della DIA di Reggio Calabria, una riunione operativa tra i magistrati e gli investigatori che indagano sulla vicenda. Vicende naturalmente che entrano in parte anche nella campagna elettorale per le europee. Oggi il Presidente del Consiglio Renzi, in realtà da segretario del PD, ha iniziato un tour nelle città del Mezzogiorno. Elisabetta Fiorito, buongiorno. Sì, buongiorno. Allora iniziamo con il tour, perché da Milano il Premier Matteo Renzi si è spostato al sud, ha incontrato i ragazzi della scuola Parini di Secondigliano. Dentro le scuole twitta il Presidente del Consiglio: la lotta alla camorra, la scommessa per una cittadinanza diversa parte da qui. Ma sentiamo quanto ha detto il Premier. La tesi del governo è che l'Italia è il problema dell'Italia e voglio provocare il sud è il problema del sud. Credo cioè che dentro di noi ci sia la possibilità per uscire dalla crisi. Non è vero che il nostro problema deriva dall'Europa o che l'Italia è il problema dell'Europa. E non è vero che il sud è spacciato per cause esterne. Il sud, se il sud fa il sud e sfrutta bene ciò che abbiamo di fronte a noi, possiamo rimettere in moto la speranza non soltanto in questa parte del paese. Renzi si sofferma sull'utilizzo dei fondi europei. In 20 anni si sono perdute occasioni oggettive. Noi chiediamo l'impegno a lavorare insieme, ma anche a intervenire direttamente nel caso in cui le regioni non sappiano usare i fondi dell'Unione. Non si può consentire a nessuno di non spendere o di spendere male. Il mancato uso grida vendetta. E Renzi fa anche un nuovo attacco alla TV pubblica. La RAI non è dei conduttori TV o dell'usugrai, ma appartiene ai cittadini che la pagano attraverso il canone e la fiscalità generale. Arriveremo anche alla TV pubblica. Se chiediamo i sacrifici ai cittadini e alle banche, è giusto che li faccia anche la RAI. Ultimo capitolo, Simone, il risultato delle urne. Renzi spiega che l'anno scorso arrivò primo il Movimento 5 Stelle, secondo il PD di Bersani e terzo il PDL. Quest'anno, dice il Premier, il podio sarà diverso. Applausi, ma anche qualche fischio al sud. A te, Simone. Grazie Elisabetta Fiorito, e sentiremo la risposta proprio dell'Usigrai più avanti nel corso di Effetto Giorno. Gli altri fronti, soprattutto quello di Forza Italia, si concentra naturalmente sulle rivelazioni dell'ex segretario al tesoro Timothy Geithner, che tanto stanno facendo discutere, su quell'autunno del 2011 nel quale ha raccontato dei funzionari europei l'avrebbero avvicinato per chiedere sostanzialmente all'America di far fuori Berlusconi, dal punto di vista politico naturalmente. Vincenzo Miglietta, buongiorno. Sì, buongiorno Simone, ed è così. Le memorie di Tim Geithner, ex segretario al tesoro americano, in primo piano anche questa mattina. La sua ricostruzione su presunte pressioni europee sull'amministrazione di Washington perché nel 2011 contribuisse a far cadere il governo Berlusconi è la conferma per lo stesso Cavaliere che si trattò di un vero e proprio colpo di Stato. Sentiamo allora il leader di Forza Italia. Il complotto ebbe un fine ed un risultato positivo con le dimissioni mie e del mio governo l'11 di novembre del 2011. Io mi ritirai perché prevalse in me il senso di responsabilità per mantenere stabilità nell'emergenza al mio paese. Fu nominato un governo di tecnici, parentesi, si tratta di colpo di Stato. E per Berlusconi, intervenuto ad 1 mattina, è altrettanto grave il silenzio di queste ore delle alte cariche dello Stato. Altro capitolo, quello delle riforme, l'intesa con Renzi. Berlusconi dice no ad accordi inutili, aspettiamo di vedere le riforme in Parlamento, poi aggiunge se riteniamo che siano buone le votiamo, altrimenti votiamo contro. È tutto, linea allo studio. Grazie Vincenzo Miglietta, e adesso andiamo all'estero per la tragedia di questa notte. Ancora si stanno contando i morti in Turchia, dove c'è stata un'esplosione in una miniera. Il più grave incidente di sempre. Così Taner Yildiz, ministro dell'energia turco, il che vuol dire che le vittime saranno di più, molte di più delle 263 morte nel 92 in fondo alla miniera di Zanguldak nella regione del Mar Nero. A Zanguldak nel novembre scorso 300 minatori si erano rinchiusi per protestare contro le misure di sicurezza ritenute insufficienti. A Soma però l'ultimo controllo, stando alle notizie, risaliva al 17 marzo. Nessun problema rilevato. Eppure, 2 settimane fa, il principale partito di opposizione, il CHP, aveva chiesto in Parlamento un'inchiesta sulla sicurezza proprio nella miniera di Soma. La proposta era stata bocciata dall'HKP, che ha la maggioranza assoluta nella Grande Assemblea di Ankara. La sicurezza nelle miniere in Turchia è terreno di scontro politico. Erdogan ha annullato il suo viaggio all'estero e ha indetto 3 giorni di lutto nazionale, ma è possibile che non basti. A Istanbul, protesta spontanea in metropolitana. Tante persone si sono sdraiate a terra, nei corridoi e nei vagoni. Manifestazioni sono previste in diverse città del paese. A Soma, intanto, familiari e amici restano in un'attesa carica di tensione. Al momento dell'incidente c'erano circa 800 minatori all'interno della miniera. Forse molti lavoratori in nero. Tra i 3 e i 400, quelli ancora intrappolati all'interno. Valeria De Rosa, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Ancora le cronache dall'immigrazione che ci consegnano innanzitutto dei dati, poi ci torneremo più avanti in Europa 24. Nei primi 4 mesi del 2014 c'è stato un aumento dell'823% di arrivi di migranti verso l'Italia rispetto allo stesso periodo del 2013. Il dato è stato fornito da Gil Arias Fernandez, che è il vice direttore di Frontex, presentando i dati dell'agenzia. Si parla di 25.650 arrivi in Sicilia. E a proposito del budget di Frontex per il 2014, molto ne abbiamo parlato anche ieri con il ministro Alfano, è più basso di quello per il 2013. Per far fronte ad eventuali emergenze, con la discussione del budget 2015, ha detto di nuovo il vice direttore di Frontex, a marzo di quest'anno avevamo chiesto la possibilità di avere una riserva di denaro extra budget, ma la Commissione europea ce l'ha negata. Questo è il quadro dal punto di vista dei numeri, ma c'è anche la cronaca sul campo. Hanno 23 anni il tunisino e il marocchino fermati la notte scorsa dalla procura di Catania. Sono accusati di omicidio volontario plurimo, favoreggiamento all'immigrazione clandestina e naufragio. Sarebbero gli scafisti dell'imbarcazione naufragata 2 giorni fa a 100 miglia dalla costa di Lampedusa, nella quale hanno perso la vita 17 persone, tra cui 12 donne, 3 uomini e 2 bambine, una neonata e l'altra di soli 2 anni. Sul peschereccio di legno di una ventina di metri c'erano circa 300 persone. Gli scafisti avrebbero sabotato il motore per innescare la rete di soccorsi in acque internazionali, ma qualcosa è andato storto. L'acqua imbarcata e il movimento dei migranti hanno fatto capovolgere l'imbarcazione. In 206 sono riusciti a salvarsi, tra cui 16 bambini soccorsi dalla fregata gregale della Marina Militare. Intanto anche a Ragusa e Siracusa sono stati rintracciati gli altri scafisti che ieri hanno trasportato nei porti di Pozzallo e Augusta circa 640 migranti. Per lo sbarco a Pozzallo dei 250 siriani sono indagati 6 egiziani, accusati anche di sequestro di persona per aver rinchiuso per 5 giorni nella stiva della barca numerose famiglie, impedendoli di rinunciare al viaggio. E mentre a Catania si procede con l'identificazione delle vittime del naufragio, a Porto Empedocle si attende nelle prossime ore l'arrivo di altri 295 migranti. Marisa Labanca, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Allora, come vi dicevamo in apertura, è appena arrivata la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul famoso bonus IRPEF, sui famosi 80 euro, doveva chiarire molte cose. Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, buongiorno, benvenuta ai nostri buongiorno. Microfoni. Facciamo così, ci sentiamo il traffico e poi ne parliamo. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. C'è un'inchiesta su Bibanca, indagati anche Bazzoli e Pesenti, ipotesi di reato, truffa, ostacolo alla vigilanza. 205 le vittime accertate nell'esplosione di una miniera in Turchia. Dai dati Frontex emerge un aumento degli arrivi di migranti dell'823% in Italia nei primi 4 mesi dell'anno. L'indagine su Expo, ci sono nuovi interrogatori in corso. E veniamo a parlare dunque di fisco e della circolare dell'Agenzia delle Entrate per quanto riguarda il bonus degli 80 euro, la novità che riguarda un po' tutti i lavoratori, Maria Carla De Cesari del Sole 24 Ore, mi sembra che sia il fatto che vale anche per chi ha immobilità, cassa e disoccupazione, no? Esatto, questa è una dei chiarimenti attesi, diciamo, da parte dei lavoratori che appunto hanno dei sostegni al reddito. È detto che sarà l'INPS a derogare questo bonus, quindi non devono questi lavoratori che stanno in mobilità e in cassa integrazione non saranno obbligati a fare la dichiarazione dei redditi il prossimo anno per recuperare il bonus. Dal punto di vista dei datori di lavoro, direi che la cosa più importante è il fatto che l'agenzia, in attesa eventualmente che la legge chiarisca e lo precisi proprio in termini normativi, mette nero su bianco il fatto che la compensazione avviene con l'F24 e soprattutto le imprese nel compensare il bonus erogato ai lavoratori con le ritenute fiscali e i crediti potranno superare il limite generale di 700.000 euro. Questa sembra una questione che interessa poche imprese, magari solo le maggiori. In realtà è una questione che interessa per esempio prima di tutto le imprese che hanno esportazioni con l'estero, che hanno di solito vantano molti, molti crediti compensati, che già hanno esaurito il plafond nei primi mesi dell'anno. Quindi la precisazione è molto importante perché non mette sulle spalle delle aziende l'erogazione, l'anticipo del bonus, ma le aziende potranno compensarlo con prima di tutto le ritenute e poi con i contributi eventualmente. Allora, io vi rimando per tutti i dettagli naturalmente tanto al sito del Sole 24 Ore che ne parlerà, quanto ovviamente al Sole 24 Ore domani in edicola. Saluto Maria Carla De Cesari, è già in studio con noi il nostro Dario Ricci, ma mentre si sistema per parlare della nazionale, delle scelte di Prandelli per coinvolgere tutti i famosi 60 milioni di CT, mentre si sistema parliamo della finale di Europa League Benfica-Siviglia, si gioca questa sera, lo sapete, lo Juventus Stadium di Torino. Il regista della diretta internazionale è un italiano, Riccardo Poma, 42 anni, dirige la produzione Mediaset che fornirà il segnale a 200 paesi del mondo collegati. Una sfida adrenalinica, dice al microfono di Maria Luisa Pezzali. Ci lavoriamo da agosto, adesso siamo tutti pronti e stasera sarà una grande produzione. In che cosa consiste la macchina messa in campo per una regia del genere? È una macchina che oggi consta di 37 telecamere in totale, 32 per il segnale internazionale per tutto il mondo, per i 200 paesi collegati. Io gestisco una sessantina di collaboratori diretti. La mia regola principale è make it easy, farlo il più semplice possibile in modo da rispettare l'evento sportivo, mostrare sempre la palla in gioco e quando la palla non è in gioco essere più spettacolare possibile dal punto di vista della regia e mostrare più emozioni possibili sia dei giocatori in campo, degli allenatori, sia degli spettatori presenti allo stadio. E riesci comunque a godertela la partita? Non solo me la godo, tento di farla come mi piacerebbe vederla da casa. Sono un privilegiato, sono il primo spettatore, come mi piace chiamarmi. Dario Ricci, tu stasera tra l'altro ci vai alla partita, no? Eh sì, ci vado, la racconteremo durante il GR, effetto notte. Certo, era la finale della Juventus, no? Doveva essere la finale della Juventus che invece alla finestra fa la brava padrona di casa, ospita le delegazioni del Benfica e del Siviglia. E quella coppa comunque non la alzerà, insomma. Senti, invece per parlare di nazionale, Sì, abbiamo il listone 31, sono 31 i nostri giocatori, quelli scelti da Prandelli, perché c'è anche il portiere del Parma Mirante che il CT ha voluto già chiamare, preallertare nel caso di infortuni dei portieri titolari. Dubbi o perplessità, perché la formazione ormai in queste ore l'hanno fatta più o meno tutti avranno detto ah no, ma questa scelta non mi piace, quest'altra mi piace di più, tu che dici? Ma certo, è un Prandelli che non si può dire che non abbia fatto delle scelte meritocratiche, perché non c'è Giaccherini, che pure fino alla Confederations dell'anno scorso era Giaccherigno, ce lo ricordiamo, aveva giocato benissimo anche contro il Brasile, era stato uno degli uomini chiave del campionato europeo 2012, non c'è Osvaldo, che Prandelli ha sempre definito la spalla ideale per Balotelli in attacco, ci sono Destro, Immobile e Cerci, giocatori che hanno un'esperienza internazionale molto molto relativa e che magari potrebbero essere decisivi in un quarto di finale mondiale, chissà, magari in un ottavo, staremo a vedere. C'è Cassano, che si è conquistato sul campo una convocazione che sembrava persa, quindi tutto si potrà dire di Prandelli, e molto si è detto già su questo famoso codice etico, ma non che non abbia tenuto conto dei risultati del campo di quest'anno, ecco. Allora, grazie Dario Ricci. Naturalmente di tutto questo si tornerà a parlare in tutti i convocati a partire dalle 14. Cambiamo decisamente argomento. Alessio Villarosa, deputato del Movimento 5 Stelle, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, però mi piacerebbe che si sentisse un po' meglio. Ci faccia sentire, parli un attimo, vediamo se funziona il telefono. Ma sono dietro l'aula perché stiamo votando gli ordini del giorno, mi posso, ma devo fare attenzione perché non voglio perdere una votazione. Non vuole perdere una votazione. Più che altro, visto che stanno cercando di fare ostruzionismo su questo decreto per ritardare la richiesta d'arresto di Genovese. Ed è proprio di quello che vogliamo parlare, perché oggi si vota la richiesta, si vota l'autorizzazione all'arresto del deputato del PD Franco Antonio Genovese. C'è chi ha detto che, dato che il voto è segreto, state preparando il trappolone al Partito Democratico, cioè siete pronti a votare no all'arresto in maniera che sembri che il PD ha votato no e ci facciano una figuraccia. Guardi, per chi conosce il Movimento 5 Stelle sa che questa è follia pura. Il Movimento 5 Stelle non farebbe mai una cosa del genere. Noi siamo per l'integrità morale al 100%, quindi si figuri se ci mettiamo a giocare su una cosa così importante. Guardi, io sono siciliano, sono della provincia di Messina. Spesso e volentieri si dice che i siciliani rubano i soldi. E io questa cosa non la posso più accettare, perché i soldi le rubano questi deputati o questa gente a questi livelli mette un blocco ai fondi che arrivano dall'Europa, che arrivano dall'Italia verso la Sicilia per farla sviluppare, perché capite bene e conoscete bene la situazione lavorativa del nostro territorio, e questa gente qui sulla tragedia va a rubarsi fino a 6 milioni di euro facendo finta che comunque non ci sono palesi conflitti di interessi, dopo che possiedi circa 10 società che si occupano di corsi di formazione e hanno ricevuto 6 milioni di euro. Detto ciò, Villarosa, adesso giusto poi per chiarire, naturalmente non è che non c'è una condanna per Genovese ancora, no? C'è la richiesta d'arresto. C'è la richiesta d'arresto, sì. Senta, sento una cosa, Villarosa, quindi non farete scherzetti da questo punto di vista? Non esiste, su una cosa così delicata e importante. Guardi, abbiamo 55 milioni di occhi addosso, ma soprattutto 5 milioni di siciliani con gli occhi addosso. Non permetterei mai una cosa del genere. Secondo lei come finirà? Io la mia paura è che il PD è da ieri che paventa la possibilità di invertire l'ordine del giorno e quindi cercare di spostare la votazione, la richiesta d'arresto dopo le elezioni. Cioè, io ho la paura che questo partito, il Partito Democratico, stia giocando su una cosa così importante pur di non perdere dei punti percentuali alle elezioni europee, e questo sarebbe di una tristezza e di una, non lo so, di una mancanza di rispetto da parte di tutti gli italiani e della dignità degli italiani incredibile, guarda. Proprio per cercare di evitare questo. Senta una cosa, tra l'altro, per votare prima su Genovese, voi avete, da quel che ho capito, insomma. Che cosa avete fatto? Abbiamo rinunciato a presentare, abbiamo ritirato degli ordini del giorno proprio per evitare questa cosa. Veramente ne ha presentati, non ha mai fatto ostruzionismo. Allora Villarosa, la stiamo perdendo, saluto Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai, buongiorno, benvenuto. Buongiorno, grazie. Allora, l'abbiamo chiamata perché insomma, il Presidente del Consiglio oggi è stato piuttosto duro. Anzi, la cosa è iniziata ieri in un'intervista con Giovanni Floris a Ballarò. Sentiamone un brano, un estratto. È possibile che in questo paese ci sia stato un duopolio tra Rai e Mediaset assolutamente fuori luogo e non ci sia stata l'apertura? Oggi c'è Rai, c'è Mediaset, c'è Sky, c'è il digitale, ci sono le nuove forme. E di fronte a queste straordinarie opportunità, se io fossi un dirigente della Rai, mi preoccuperei di portare la Rai nel terzo millennio, non la Rai a inseguire il rapporto con i partiti. Fatto sta che il Presidente del Consiglio bocca sulla Rai, nel senso di partiti, non ce la mette. Chiedere alla Rai di dare una mano nel momento in cui ci rimbocchiamo tutti le maniche, caro Floris, okay. Tocca anche a voi. Mi dispiace, ma tocca anche a voi. Molto volentieri. Tocca anche a voi, 150 milioni di euro i tagli previsti, dice oggi Renzi, la RAI non è dei conduttori TV o dell'Usigrai, che è il sindacato appunto dei giornalisti RAI, ma è dei cittadini. Di Trapani, ma non si possono fare questi tagli? Diciamo innanzitutto una cosa, ha ragione, la RAI non è né dell'Usigrai né dei conduttori, però non è neanche del capo del governo, che dice che non si occupa di RAI, però poi dice cosa la RAI deve tagliare, cosa la RAI deve chiudere. Allora la RAI vuole contribuire in un momento economicamente difficile, ma perché a pagare devono essere sempre gli stessi? Allora Renzi andasse finalmente a pescare i 500 milioni di euro che vengono evasi ogni anno, facciamo finalmente pagare chi non paga le tasse. Con quei 500 milioni si può fare ben più di quello che in questo momento si sta facendo. Benissimo, si può recuperare qualcosa, cioè ci sono i margini per risparmiare, no? I margini per risparmiare ci sono, ma una cosa è intervenire sugli sprechi, un'altra è mettere in ginocchio un'azienda e l'indotto. Sono migliaia di posti di lavoro a rischio. Migliaia di posti di lavoro a rischio, ma anche sulle sedi regionali Renzi dice insomma qualcosa si può fare da quel lato, cioè è giusto che la RAI abbia ancora 20 sedi regionali secondo lei di Trapani? Fare meglio si può sempre fare meglio, ma Renzi, che parla di sprechi colossali, indicasse quali sono gli sprechi. Noi siamo pronti a vederci ad un tavolo e discutere di quali sono gli sprechi, vediamo se esistono questi sprechi. Lui dice genericamente ci sono, ma poi non li indica. 20 sedi regionali, servono 20 sedi regionali. In tutti i paesi europei i servizi pubblici vivono principalmente di presenza sul territorio. Tutti i servizi pubblici hanno bisogno di stare vicino ai cittadini, ovvero sul territorio. E secondo lei, voi avete fatto un quadro di dove si potrebbero recuperare quei soldi? Il problema è che intervenire su 150 milioni non è un'operazione che si può fare intervenendo su qualche spreco, che pure noi siamo disponibili a discutere, anzi noi chiediamo che si discuta. 150 milioni è un'operazione che semplicemente mette in ginocchio un'azienda, non è un'operazione di banale intervento su singoli capitoli di spesa. È un intervento che semplicemente rischia di tagliare interi pezzi d'azienda e quindi migliaia di posti di lavoro. Grazie Vittorio Di Trapani, segretario dell'Usigrai. Noi ci fermiamo, ci ritroviamo tra un attimo con la borsa e poi più avanti risponderò a qualche SMS in proposito alla vicenda di Francantonio Genovese. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. Inchiesta su Ubibanca, indagati anche Bazzoli e Pesenti. Sono 205 le vittime accertate nell'esplosione di una miniera in Turchia. Immigrazione, i dati Frontex indicano un aumento degli arrivi dell'823%. Arriva la circolare dell'Agenzia delle Entrate sul bonus IRPEF, vale anche per chi è in mobilità, cassa integrazione e indennità di disoccupazione. Prima di sentire i mercati, a chi contesta la domanda che abbiamo fatto in merito all'arresto di Francantonio Genovese, la richiesta di arresto che è arrivata per Francantonio Genovese è in effetti una richiesta di arresto non per un uomo condannato, ma una persona per la quale il GIP ha richiesto l'arresto. Quindi in effetti, come abbiamo detto, non è condannato. Il momento della borsa. Borse in diretta. È una giornata complessivamente negativa a Piazza Affari, mezzo punto percentuale di calo sul FTSE MIB, lo 0,61 sul FTSE OSHARE, Parigi meno 0,14, Francoforte meno 0,12, Londra meno 0,14%. Isabella Tasso, Radio Core Il Sole 24 Ore, ciao, bentornata. Buongiorno. Come va UBI? UBI è debole, perde un 2%, questo dopo la notizia dell'inchiesta a Bergamo. Questo per quanto riguarda UBI, complessivamente i mercati perché vanno male? E le borse prendono fiato, questo dopo il record segnati ieri da diversi indici. Piazza Affari, che già era più debole ieri, paga anche i conti trimestrali di Mediaset e del Banco Popolare, oltre a, appunto, all'inchiesta su UBI che già citavi, che ha reso molto nervosi tutti i titoli bancari. In effetti, appunto, Banco Popolare scende del 3,3%, la Popolare Emilia Romagna del 2,5%, Mediobanca dell'1,41%, Monte dei Paschi dello 0,96%, Intesa San Paolo dello 0,93%. E come dicevi, conti Mediaset meno 6,09%, che non sono piaciuti al mercato per niente. Sì, non sono piaciuti i conti, ma soprattutto non sono piaciute le deludenti indicazioni sulle prospettive della raccolta pubblicitaria del gruppo televisivo. Infatti il titolo è arrivato a perdere oltre il 7%. Adesso, come dicevi, cede intorno al 6,9%. E grazie anche per oggi a Isabella Tasso di Radio Core Sole 24 Ore. Buona giornata. Buona giornata. In collaborazione con borsaitaliana.it. Perché do al Centro Cardiologico Monzino il mio 5 per 1000? Perché è l'unico ospedale esclusivamente cardiologico in Europa. Perché da 20 anni al Monzino si fa prevenzione e ricerca sulle malattie cardiovascolari. Perché le sue terapie, anche in emergenza, sono le più innovative. Lo faccio per me. Io do al Centro Cardiologico Monzino il mio 5 per me. Dai anche tu al Centro Cardiologico Monzino il tuo 5 per 1000. Fallo per te. Per sapere come, vai su cardiologicomonzino.it. A scuola di business. Oggi astronomia. Si possono mandare in orbita gli affari riducendo la gravità degli interessi? Sì, con i veicoli commerciali Volkswagen, Caddy, Crafter, Transporter e Amarok. Oggi vi offrono infatti un finanziamento TAN 0, TAEG 1,53, con 4 anni o 80.000 km di manutenzione ordinaria in omaggio. Decollate verso la concessionaria, l'offerta scade il 31 maggio. Volkswagen veicoli commerciali, la prima regola per lavorare bene. Sei un'azienda? Cerchi agenti di commercio? Sì, sì, un'azienda, stai cercando agenti, mi vai sul sito agente.it. Rappresentanti oppure venditori, mi sembra sul sito agenti.it. Agenti.it, dove trovi i tuoi agenti di commercio. Anche a Milano. Ragazzi, tra poco in onda. Ok, hai sentito di Thun? Quelli degli angeletti? Non ancora. Thun ha scelto il CRM di Microsoft Dynamics per conoscere sempre i desideri dei propri clienti sul web e nei punti vendita, con dati aggiornati in tempo reale, anche su mobile, grazie ai preziosi consigli del partner MHT. Così il cliente è sempre... al centro dell'attenzione. Già, Microsoft Dynamics offre soluzioni reali. Lo dico subito. In primo piano, scoprite tutte le soluzioni per la vostra azienda su microsoftdynamics.it. Vorrei cambiare gli infissi, la caldaia e le lampade a LED. Chissà quanto mi costa. Realizzare il tuo progetto conviene con il finanziamento BNL Green Famiglie. Scopri i tassi vantaggiosi e approfitta delle agevolazioni fiscali per risparmiare energia e proteggere l'ambiente. Prenota una diagnosi gratuita all'898-9999. BNL Gruppo BNP Paribas. La banca per un mondo che cambia. Messaggio pubblicitario. Per condizioni contrattuali ed economiche vedi le informazioni europee di base sul credito ai consumatori in filiale e il foglio informativo su bnl.it. Effetto giorno. Le notizie in 60 minuti. È stato approvato oggi, prima lettura, quindi manca anche il passaggio alla Camera, il decreto sulla casa. Con 133 voti favorevoli e 99 contrari, il Senato approva in prima lettura il decreto casa. Tra le modifiche apportate dall'Aula di Palazzo Madama c'è la norma che svincola dalle spese per le ristrutturazioni il bonus per l'acquisto di mobili ed elettrodomestici, il cui tetto è fissato a 10.000 euro. Tra le varie misure, il provvedimento prevede anche la cedolare secca al 10% per i comuni colpiti da calamità, interventi di edilizia sociale e nuove risorse pari a 25 milioni per l'Expo di Milano. È stato invece ritirato il contestato emendamento che stanziava 50 milioni di euro per le fondazioni liriche attingendo dal fondo per i debiti della pubblica amministrazione, una misura questa proposta dai relatori con l'obiettivo di rafforzare l'offerta culturale e turistica per l'Expo. Contro il decreto che la Camera dovrà convertire in legge entro la fine di maggio protestano i movimenti per la casa e in vista del corteo di sabato alcuni attivisti hanno passato la notte in tenda non lontano dal Senato. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. C'è una nuova inchiesta, un nuovo arresto per quello che è stato definito il re della bufala. Un impero economico costruito grazie alla vicinanza a un clan della Camorra. Così l'imprenditore Giuseppe Mandara, noto come il re della mozzarella, avrebbe in realtà creato e reso florida la sua attività. E per questo, con l'accusa di associazione a delinquere, riciclaggio e reimpiego, è stato arrestato per la seconda volta. L'ordinanza eseguita dalla DIA impone i domiciliari è stata richiesta dai PM della DDA di Napoli, Catello Maresca e Alessandro Milita. Dalle indagini fatte anche sulla spinta di dichiarazioni di diversi collaboratori di giustizia, è emerso che il caseificio Mandara, il cui marchio è ben noto in Italia e all'estero, è stato acquistato in contanti negli anni 80 con i soldi di una società a partecipazione mafiosa con il clan La Torre di Mondragone in provincia di Caserta, che avrebbe anche ripianato i debiti dell'imprenditore. L'attività degli inquirenti ha in particolare portato a verificare che Mandara, a beneficio del clan, si sarebbe anche prestato a depistare le indagini su un caso di Lupara Bianca avvenuto nel 1990, l'omicidio dell'ex assessore e vice sindaco di Mondragone Antonio Nunes. Laura Viggiano, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Napoli. E di questo torneremo a parlare tra un attimo, ma prima andiamo in Siria per la situazione in Siria. Dopo quasi due anni di tentativi di mediazione sul conflitto siriano, l'inviato delle Nazioni Unite e della Lega Araba in Siria, Lakhdar Brahimi, getta la spugna. Le dimissioni saranno effettive dal 31 maggio. Ad annunciare l'addio del diplomatico algerino, 80 anni, il segretario generale dell'ONU, Ban Ki-moon. Venire meno al suo impegno, ha detto Brahimi, è stato per lui molto triste. It's very sad that I leave this position and leave Syria behind in such a bad state. Brahimi si è scusato con il popolo siriano per non essere stato in grado di dargli ciò che merita. Voci su un suo possibile passo indietro si inseguivano da tempo. Brahimi era stato nominato nell'agosto del 2012 in sostituzione di Kofi Annan, anche lui dimissionario dopo sei mesi. A prendere il posto di Brahimi potrebbe essere l'ex ministro degli esteri tunisino Moriane. Lucia Maffei, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Sono stati chiusi i libri per il nuovo BTP a 15 anni con scadenza marzo 2020, il rendimento probabilmente è sotto il 3,60%, sono stati raccolti ordini superiori a 20 miliardi. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti. E abbiamo solo un paio di minuti con Antonio Lucisano, direttore del Consorzio di Tutela della Mozzarella di Bufala Campana DOP. Buongiorno Lucisano. Buongiorno, buongiorno. La chiamiamo perché nei giorni di due giorni sono successi, per così dire, due fattacci. Ci sono stati 13 arresti per un grosso caseificio per mozzarella in parte adulterata, in parte con l'utilizzo di latte non di bufala, e poi oggi un nuovo arresto per Mandara, si sospetta, si immagina, i magistrati immaginano una collusione con la Camorra, anzi addirittura un aiuto della Camorra per mettere in piedi l'azienda. Vorrei capire se quanto vi sentite danneggiati da tutto questo e se ci può assicurare che l'ambiente nel complesso è pulito. Ma guardi, è paradossale quello che sta accadendo, perché proprio in questi giorni noi stiamo celebrando un evento di straordinaria importanza che è le strade della mozzarella a Pestum, dove abbiamo 50 chef stellati che non solo dall'Italia ma dalla Spagna e dalla Francia sono intervenuti per celebrare il nostro prodotto con delle preparazioni straordinarie, eccetera. E sono accaduti questi due fatti che ovviamente ci danneggiano non poco sul piano dell'immagine, però in questi casi è sempre molto difficile ricondurre alla ragione le cose. Nel primo caso si tratta di un episodio certamente molto grave, sul quale noi peraltro nell'ottobre 2011 avevamo assunto proprio su questo caseificio in modo particolare dei provvedimenti di espulsione dalla qualità di socio del consorzio,

Da New York è tutto. Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento. A domani. Goodbye and get going. America 24. Ed è tutto anche per Effetto Giorno. Un ringraziamento a Filippo Aureggi in regia, Laura Faggini in assistenza e in redazione, come sempre, tutta la redazione di Radio 24. Effetto Giorno a radio24.it per scriverci, la nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno, il mio account Twitter se volete Simone Spezia. Noi ci risentiamo tra un attimo con GR24. Effetto Giorno torna domani alle 13:00.